seduto lì con la neve sopra il cuore, come una montagna che esa, sei come l'acqua che scorre dentro il fiume, anima leggera resta Eva. Vecchio amico, resta come sei, spirito che va. Il tuo karma vede la poesia dentro l'elegia. Come un capo indiano che guarda verso il cielo, la tua quercia crescerà, con il tuo sguardo vedi l'infinito, senti la pioggia che verrà. Vecchio amico, resta come sei, spirito che sa. Un cavallo nella prateria, la tua fantasia. E come il vento che danza nel cortile, la tua musica verrà, e nei tuoi occhi autunno e primavera, sogno che non finirà. Vecchio amico, resta come sei, spirito che va. Il tuo karma vede la poesia dentro.